cante de guru. E sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto c'è quel movimento clandestino di cantine blu. Una volta qui c'era il bar Mario, l'han tirato giù tanti anni fa. E i vecchi, vecchi, vecchi, vecchi, vecchi, vecchi sono ancora lì che dicono che senza non si fa. Oh, oh, oh, messo in controllo sembra un tempio. Oh, oh, oh, non sanno che siamo qua giù. Oh, oh, oh, il plexiglass sarà l'esempio e noi rischiamo molto, ma proprio non se ne può più. Gli anime plexiglass stanno ballando. Stanno dimostrando come si fa uno show. Gli anime plexiglass stanno trasudando fango. Gli anime plexiglass stanno insegnando che sgarare non si può. Sgarare non si può. Sgarare non si può. Arriva nella New Carboneria. E qua, e qua, e qua, e qua, e qua, e qua che si può far l'amore, certi che la ronda non ci sia. E poi c'è il capo che ci riempie l'aria con la Gibson che ha rubato lui. E sopra, sopra, sopra, sopra, sopra, sopra vanno avanti con lo show che è destinato pure a noi. Oh, oh, oh, adesso in controllo son tranquilli. Oh, oh, oh, chi replicanti non ce n'è. Oh, oh, oh, i vigilanti sono svegli e dura stare al mondo nel 2123. Gli anime plexiglass stanno ballando tango. Gli anime plexiglass stanno dimostrando come si fa un show. Gli anime plexiglass stanno trasudando fango. Gli anime plexiglass stanno insegnando sgarare non si può. Sgarare non si può. Sgarare non si può. Plexiglass stanno ballando tango. Gli anime plexiglass stanno dimostrando come si fa un show. Gli anime plexiglass stanno trasudando fango. Gli anime plexiglass stanno insegnando.